Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Utilizzando il PAP test, che consiste nel prelievo di cellule dal collo dell'utero e dal canale cervicale, è possibile diagnosticare i tumori dell'ovaio in fase precoce. Questo è il risultato di uno studio italiano pubblicato su JAMA Network Open. A Obiettivo Salute il commento del dottor Maurizio D'Incalci, che dirige il Dipartimento di Oncologia dell'Istituto Mario Negri e che ha coordinato lo studio. Il PAP test non viene fatto oggi per il tumore dell'ovaio, viene fatto per l'indagine sul collo dell'utero, per identificare situazioni di precancerosi del collo dell'utero. Non si pensava di poterlo utilizzare per poter diagnosticare il tumore dell'ovaio. Noi abbiamo fatto degli studi con tecniche molto sofisticate che ci indicano che teoricamente è possibile farlo, perché è possibile rintracciare nel PAP test delle alterazioni che si ritrovano nel tumore dell'ovaio, e siamo riusciti anche, prendendo dei PAP test molto prelevati prima, molti anni prima della diagnosi di tumore dell'ovaio, a riscontrare queste alterazioni. Quindi esiste la possibilità futura, penso, di utilizzare questo tipo di materiale per fare una diagnosi precoce. In questo momento non è ancora pronto il test per poterlo utilizzare in questo modo, ma noi ci stiamo lavorando molto e mi auguro che nei prossimi anni dovremmo riuscire a sviluppare questo test applicabile per tutte le donne, perché per il momento non esiste proprio un test per la diagnosi precoce. Evidentemente, se uno ha dei sintomi particolari, è bene che si faccia seguire dal ginecologo, però effettivamente è uno dei problemi grossi di questa patologia, è proprio che non dà dei sintomi particolarmente specifici, e noi ci auguriamo quindi nel prossimo futuro di poter avere questo test per tutte le donne. Si chiama T-Feb, è una sorta di gene spazzino che, se funziona male, potrebbe causare tumori renali e cisti del rene. Questo è quanto è stato dimostrato da uno studio italiano pubblicato su Nature, che commentiamo a Obiettivo Salute col professor Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina di Pozzuoli, che ha guidato lo studio. Dunque, questo gene T-Feb è un gene che regola lo smaltimento dei rifiuti cellulari, e nel fare questo genera energia per la cellula, che serve alla cellula per crescere e per proliferare. Purtroppo però questo meccanismo, che è un meccanismo fisiologico che è presente in tutte le nostre cellule, certe volte impazzisce, per esempio a causa di mutazioni genetiche, e viene preso in prestito dai tumori per promuovere proprio la propria crescita e proliferazione. E quindi la scoperta che abbiamo fatto è che spegnendo questo gene abbiamo la possibilità di bloccare la crescita tumorale e anche la formazione di cisti renali. Noi pensiamo che questa scoperta possa aiutare a trovare poi in futuro una terapia. Grazie professor Ballabio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. E vi aspetto come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Oggi protagonista del nostro incontro a tu per tu il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo clinico a Milano, con cui parliamo di metabolismo. Il vostro metabolismo è lento o rock? Seguiteci. Buona giornata da Nicoletta.